I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. La rottamazione delle cartelle di Equitalia è sicuramente una delle misure più popolari nella manovra varata una settimana fa e della quale ancora non conosciamo tutti i dettagli. Abbiamo visto le slides presentate sabato scorso dal Premier Matteo Renzi, ma sui testi di legge è ancora nebbia fitta. Non sono stati inviati al Parlamento, il che, bisogna dirlo, non è un bel segnale, né dal punto di vista della trasparenza, né per le difficoltà che il governo stesso sta evidentemente incontrando per cercare di far quadrare i conti della manovra. La rottamazione delle cartelle, dicevamo, ieri è spuntata una bozza del testo. A quanto si apprende, in attesa di leggere la versione definitiva, anche le multe stradali potranno essere pagate con un grosso sconto, ma solo se il comune lo deciderà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Altra novità molto attesa è che potrà fare la rottamazione anche chi ha rateizzato il debito con Equitalia, a patto però che sia in regola con i versamenti da qui a fine anno. Insomma, si va pian piano componendo il mosaico di un'operazione che riguarda svariati milioni di cittadini, i quali nei confronti di Equitalia hanno un debito complessivo di oltre 51 miliardi di euro. Sono numeri impressionanti per una sanatoria di massa che, forse con un ottimismo eccessivo, il governo stima dovrà portare 4,2 miliardi di entrate nelle casse dello Stato. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Che la cyber war sia la nuova modalità di gestione delle fasi più dure del confronto internazionale ormai è conclamato. L'ultimo episodio è quello che riguarda alcuni hacker cinesi che avrebbero attaccato la portaerei americana Ronald Reagan per carpirne i segreti tecnologici, operativi e militari. È una portaerei nucleare, quindi una nave della massima rilevanza strategica. Gli hacker cinesi, così come ricostruito il Financial Times, avrebbero attaccato i computer dei funzionari di governo americani che si trovavano a bordo, inondandoli di mail infette. Cioè, questo è accaduto l'11 luglio scorso, il giorno prima della controversa sentenza del Tribunale dell'Aia sul Mar Cinese Meridionale. La portaerei in quei giorni era di pattuglia nella zona contesa. La lite opponeva Manila a Pechino sulle isole Spratly nel mar della Cina Meridionale e proprio ieri, non è un caso, il presidente filippino Rodrigo Duterte ha annunciato uno strappo storico con gli Stati Uniti, una presa di distanza che lo ha portato a un avvicinamento invece a Pechino. Che ci sia poi lo zampino degli hacker russi dietro la diffusione delle mail più imbarazzanti di Hillary Clinton, anche questo è un dato assodato. Quanto la sicurezza quindi dipende dal controllo delle tecnologie digitali è evidente. Forse è meno evidente che anche la nuova manifattura sta diventando tutta legata alla digitalizzazione. Il fatto che Google e Facebook abbiano finanziato la costruzione di un cavo lungo 13.000 km tra Los Angeles e Hong Kong ci aiuta a capire davvero quale stia diventando la dimensione di questo nuovo mondo con cui dobbiamo confrontarci. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.